Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione ha l'obiettivo di spiegarvi chi sono coloro che odiano e perseguitano chi predica l'Evangelo. Perché molti ancora non hanno compreso che predicare l'Evangelo significa attirarsi l'odio di molti per svariati motivi. Questa mia predicazione dunque ha lo scopo di farvi comprendere, di spiegarvi più che farvi comprendere, perché è Dio che fa comprendere, perché l'Evangelo incontra, la predicazione dell'Evangelo incontra così tanta opposizione nel mondo. Ora, che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo, voi lo sapete che cos'è, ma io ve lo ricordo, l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, cioè a Pietro, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, il fratello del Signore, poi a tutti gli apostoli. Questo è l'Evangelo. L'Evangelo che predicavano gli apostoli. L'Evangelo che è potenza di Dio, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ora, l'Evangelo è la buona novella, la buona notizia. Quindi dovrebbe diciamo, causare gioia, allegrezza, produrre gioia e allegrezza dovunque viene predicata, ma non è così. O meglio, in tutti coloro che l'ascoltano, ma non è così. Perché la predicazione dell'Evangelo suscita odio, disprezzo, vituperio, persecuzione verso coloro che sono mandati da Dio a predicarlo. Come mai? Perché? Eppure è la buona novella. La buona novella che è potente a salvare coloro che credono in essa. Allora, chi sono coloro che odiano e perseguitano chi predica l'Evangelo e quindi coloro che odiano l'Evangelo, perché il fatto che costoro odino coloro che predicano l'Evangelo è perché odiano l'Evangelo, cioè ossia sia il messaggio che il messaggero. Allora, cominciamo dagli ebrei, sì, dai giudei. Ora, voi sapete che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, predicò alle turbe questo messaggio: ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Gesù effettivamente annunziò di essere il Messia o Cristo, cioè l'unto che il Dio aveva promesso di mandare tramite i suoi profeti ab antico. Ora, gli ebrei odiarono Gesù e odiarono dunque anche la buona novella che lui annunziava. Non vi fate ingannare da coloro che dicono che Gesù non ha mai detto di essere il Messia. Gesù ha detto di essere il Messia. E come se l'ha detto? Lo ha proclamato in diverse circostanze. Quindi Gesù annunziò la buona novella che lui era il Messia. Eppure gli ebrei lo odiarono. Gli ebrei lo considerarono un seduttore, uno che traviava le moltitudini, lo considerarono un peccatore, lo considerarono un bestemmiatore, un amico dei pubblicani, dei peccatori. Pensate un po' voi, un amico dei pubblicani e dei peccatori, un mangione, un beone, insomma. Gli lanciarono contro ogni sorta di falsa accusa. Lo accusarono di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù. Lo accusarono di vietare di pagare i tributi a Cesare, considerate pure questo. Insomma, gli lanciarono contro veramente calunnie di ogni genere. Non credettero, rifiutarono di credere che lui era il Messia. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ora, dopo che Gesù fu assunto in cielo alla destra del Padre, gli apostoli dopo che il giorno della Pentecoste furono rivestiti di potenza dall'alto, infatti voi ricordate che il giorno della Pentecoste circa 120 a Gerusalemme furono rivestiti dall'alto di potenza, lo Spirito Santo venne su loro, essi furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. In quel giorno furono rivestiti di potenza dall'alto e tra questi circa 120 c'erano gli apostoli del nostro Signore. Essi testimoniarono dell'Evangelo. Cioè annunziarono la buona novella che Gesù era il Cristo. Ed anche loro furono odiati e perseguitati dai giudei. Poi il Signore salvò Saulo da Tarso, che era un feroce persecutore della Chiesa, e ne fece, lo stabilì, apostolo e dottore dei gentili, e lo mandò a predicare l'Evangelo ai gentili. L'apostolo Paolo, comunque, predicò l'Evangelo anche ai giudei. Ebbene, anche l'apostolo Paolo fu odiato e perseguitato dai giudei, i quali tentarono in diverse circostanze di metterlo a morte, perché lui annunziava la buona novella che Gesù era il Cristo. Ci sono negli Atti degli Apostoli, ci sono diversi versetti biblici che testimoniano della forte opposizione che ricevette il nostro caro fratello Paolo nel predicare l'Evangelo ai giudei. Voglio citarvi a titolo d'esempio quello che avvenne a Corinto nell'Acaia, in Grecia. Ascoltate cosa c'è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 18, a partire dal versetto 4. e ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci, ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto, da ora innanzi andrò ai gentili. Notate dunque che i giudei a Corinto contrastarono quello che diceva l'apostolo Paolo. Non solo, bestemmiarono anche, naturalmente bestemmiavano il nome del Signore Gesù. E allora vedete quale fu la reazione di Paolo? Scosse le sue vesti e gli disse quelle parole: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto, da ora innanzi andrò ai gentili. Ma perché questo odio da parte dei giudei verso l'apostolo Paolo, ma naturalmente anche verso Gesù, verso gli apostoli, verso i dodici apostoli e poi verso l'apostolo Paolo? Perché questo odio? Perché i giudei cercando di stabilire la loro propria giustizia non si sottopongono alla giustizia di Dio. E leggo un versetto qui in Romani, capitolo 10, versetto 4, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Che cosa significa? Che gli ebrei, induriti da Dio, rifiutano di credere che credendo che Gesù è il Cristo si viene giustificati, l'uomo viene reso giusto. Perché? Perché loro si appoggiano su quello che dice la giustizia che viene dalla legge. Che cosa dice? L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ora, queste parole, cioè l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, sono scritte nella legge dei giudei. I giudei, credono dunque che l'uomo viene giustificato per le opere della legge. E credendo questo, naturalmente, rifiutano di credere nell'Evangelo, perché chi predica loro l'Evangelo gli dice: guardate che nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto, ma giusto vivrà per fede. Ma loro rifiutano la giustizia di Dio basata sulla fede, perché rimangono aggrappati alla giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà, che naturalmente viene descritta così da Mosè, l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Quindi loro intoppano nella parola, perché a questo sono destinati. Quindi, intoppando nella parola, l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, loro proprio ci intoppano proprio. Loro naturalmente si illudono naturalmente di poter essere giustificati per le opere della legge e quindi non ritengono di avere bisogno di credere nel Signore Gesù Cristo nella maniera più assoluta. E loro giustificano il fatto che non credono che Gesù è il Messia prendendo altri versetti delle scritture profetiche, ossia delle scritture dell'Antico Testamento, secondo cui appunto il Messia, quando verrà, dedicherà o darà inizio a un'era di pace, no? L'era messianica, come la chiamano gli ebrei. Allora loro dicono, noi non possiamo credere che Gesù è il Messia perché Gesù non ha dato inizio a nessuna era messianica sulla terra, a nessuna era di pace. Vedete? La malvagità dilaga, ci sono tante guerre e così via, fanno naturalmente questi discorsi. Quindi ancora una volta vediamo che gli ebrei induriti da Dio intoppano nella parola, perché l'era di pace che il Messia, a cui il Messia darà inizio, è il millennio che infatti inizierà quando Gesù, il Cristo, ritornerà, dico, tornerà dal cielo. Voi sapete infatti che Gesù è andato in cielo, ma a suo tempo tornerà dal cielo, apparirà una seconda volta, scenderà dal cielo a suo tempo, e quando scenderà dal cielo, e noi aspettiamo naturalmente la sua apparizione dal cielo, allora, voi sapete che i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, come dice Paolo ai santi di Tessalonica, dice, i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Allora, in quel giorno, chiaramente, inizierà poi il millennio. Questo, diciamo, periodo di 1000 anni sulla terra, in cui Cristo regnerà con i suoi, e quello sarà un periodo di pace. Allora, gli ebrei, naturalmente, credendo che il Messia, quando verrà, dovrà dare inizio a un'era di pace, non possono accettare Gesù come il Messia. Questa naturalmente è la spiegazione che loro danno quando appunto spiegano perché per loro Gesù non può essere il Messia. Vedete dunque che queste due credenze degli ebrei gli impediscono di credere nell'Evangelo, che peraltro è un messaggio che suscita sdegno, rabbia negli ebrei. L'Evangelo è un messaggio scandaloso per gli ebrei, perché loro per loro è inconcepibile che un uomo, che non era naturalmente solo un uomo, ma anche Dio, sia morto per i nostri peccati. Ecco, questo per loro è uno scandalo. Questo sacrificio umano espiatorio per loro è inconcepibile. Eppure qualcuno dirà, ma è scritto in Isaia. Certo che è scritto, ma loro appunto intoppano nella parola e quindi non possono credere nell'Evangelo, e di conseguenza per loro l'Evangelo è un messaggio da odiare, è un messaggio infatti che loro odiano, disprezzano, rigettano, e assieme al messaggio naturalmente disprezzano, odiano anche i messaggeri, ossia coloro che annunziano l'Evangelo, sia essi ebrei o gentili, proprio per queste ragioni. Allora, quando voi leggete nel libro degli Atti degli Apostoli, diciamo, di quelle furibonde persecuzioni che i giudei, diciamo, lanciarono contro Paolo, contro i suoi collaboratori, dovete tenere bene a mente tutto ciò, perché ci sono delle ragioni alla radice di questo odio da parte degli ebrei disubbidienti nei confronti dell'Evangelo e di coloro che predicano l'Evangelo. Questo è molto importante per capire perché non ci si può alleare con gli ebrei, perché gli ebrei disubbidienti, negando che Gesù è il Cristo, chiaramente loro sono degli anticristi. Ora, i cristiani possono mai allearsi con degli anticristi? No. Gli anticristi sono tenebre, gli anticristi sono degli increduli. Quindi guai a quelle chiese, si fanno chiamare chiese, che si alleano con la sinagoga. Non c'è nessuna possibilità di alleanza con la sinagoga. Alla sinagoga, cioè agli ebrei, bisogna predicargli il ravvedimento e l'Evangelo. Naturalmente questo implica persecuzione da parte loro, disprezzo, però vituperio. Però bisogna farlo. Quindi, per tornare per esempio all'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo era fortemente odiato dai suoi connazionali e tuttora, benché l'Apostolo Paolo sia morto da molti, molti secoli, gli ebrei odiano ancora molto l'Apostolo Paolo. Ora, quindi, gli ebrei per questa ragione odiano l'Evangelo e coloro che predicano l'Evangelo. Quindi sono tra coloro che odiano e perseguitano chi predica l'Evangelo. E a tale proposito voglio dire qualche cosa d'altro. Ora, gli ebrei, se voi leggete attentamente il libro degli Atti degli Apostoli, hanno sempre istigato altri a scagliarsi contro chi annunzia l'Evangelo. Allora, facciamo degli esempi. Per esempio, Antiochia di Pisidia, ascoltate cosa c'è scritto, capitolo 13, versetto 50. Ma i giudei istigarono le donne pie, ragguardevoli ai principali uomini della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li scacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la polvere dei loro piedi contro loro, se ne vennero ad Iconio, e i discepoli erano pieni d'allegrezza e di Spirito Santo. Notate, i giudei istigarono le donne pie. Qui non siamo a Gerusalemme, ma siamo ad Antiochia di Pisidia, quindi diciamo in una città lontana da Gerusalemme. Eppure vedete i giudei che cosa fecero? Ma vi voglio leggere anche altre circostanze in cui gli ebrei istigarono altri a scagliarsi contro gli apostoli. Allora, siamo ad Antiochia qua, quindi in Macedonia, a Tessalonica. Allora, qui siamo a Tessalonica. Allora, sì, in Macedonia. La Macedonia praticamente era sopra la Caia, sopra la Grecia. Allora c'è scritto, capitolo 17, versetto 4, e alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e Sila, e così fecero una gran moltitudine di greci pii e non poche delle donne principali. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza, e raccolta una turba, misero in tumulto la città, e assalita la casa di Giasone, cercavano di trarre Paolo e Sila fuori al popolo. Avete notato? Ancora una volta, qui si parla di giudei, che praticamente istigarono degli uomini malvagi, presi dalla gente di piazza, e li lanciarono contro chi? Contro gli apostoli, misero in tumulto la città contro gli apostoli. Notate anche a Berea, dove si spostarono poi gli apostoli, successivamente. Capitolo 17 degli Atti, versetto 13. Ma quando i giudei di Tessalonica ebbero inteso che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche in Berea, vennero anche lì agitando e mettendo sottosopra le turbe. Avete notato anche qui che cosa fecero i giudei? Allora, i giudei erano maestri nel mettere sottosopra le città contro gli apostoli, cioè contro coloro che il Dio aveva mandato a predicare l'Evangelo. Allora vi faccio questa domanda: ma voi pensate che i giudei di oggi siano cambiati? No, vi posso assicurare che i giudei non sono assolutamente cambiati, e in una maniera o nell'altra, anche oggi sono dietro diverse persecuzioni, appunto, contro coloro che annunziano l'Evangelo. Non dico contro tutte, però sicuramente quello che facevano anticamente nel primo secolo dopo Cristo lo fanno ancora oggi, perché loro hanno un odio particolare verso coloro che annunziano l'Evangelo, perché, vi ripeto, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. E loro detestano la giustizia di Dio, la detestano, la rigettano. Per loro è inconcepibile che l'uomo sia giustificato per fede, eppure lo dice Abacuc, uno dei profeti antichi che era ebreo, ma loro non vogliono assolutamente sentirne parlare della giustificazione per fede. D'altronde non possono credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Vi ricordate che cosa leggiamo in Giovanni? Dice così: egli ha ciecato gli occhi loro, ha indurato il loro cuore affinché non vengano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertono e io non li sani. Così disse il profeta Isaia e così sta avvenendo. Però dovete anche, diciamo, sapere quali sono le ragioni addotte dagli ebrei per questo, diciamo, rifiuto dell'Evangelo, con naturalmente tutte le conseguenze. Ora, dopo gli ebrei ci sono i musulmani. Anche i musulmani odiano e perseguitano coloro che predicano l'Evangelo. Perché? Perché i musulmani, cioè i seguaci dell'Islam o i seguaci di Maometto, che sono centinaia e centinaia di milioni nel mondo, dicono che Gesù non fu crocifisso, Gesù non fu ucciso, fu un'illusione voluta da Dio che fosse creduto che lui sia stato ucciso, ma non fu lui ad essere ucciso, ma fu un altro ad essere ucciso al posto di Gesù. Non solo, i musulmani dicono che Gesù non è il figlio di Dio. Oltre a ciò, i musulmani sostengono che l'uomo, diciamo, viene salvato per le proprie opere. Quindi anche loro cercano di stabilire la loro propria giustizia. E quindi non si sottopongono alla giustizia di Dio che è rivelata nell'Evangelo. Allora è del tutto quindi ovvio che anche i musulmani odiano coloro e perseguitano coloro che predicano l'Evangelo. Capite allora perché i nostri fratelli che annunziano l'Evangelo, diciamo, nei paesi arabi sono perseguitati? Sono odiati dai loro connazionali arabi musulmani della religione dell'Islam per queste ragioni. Quindi ci sono sempre delle ragioni diciamo per le quali coloro che predicano l'Evangelo sono odiati. D'altronde voglio che teniate bene a mente questo: chi predica l'Evangelo agli ebrei è considerato uno che vuole far apostatare gli ebrei dalla fede in Dio. Ricordatevelo, e così anche i musulmani ritengono che chi predica l'Evangelo ai musulmani vuole che i musulmani apostatino da quella che loro chiamano dalla fede in Allah. Allah però che non è il solo vero Dio, significa Dio, però non è il solo vero Dio. perché l'Iddio dei musulmani, cioè Allah, non ha un figliuolo, avete capito? Quindi state attenti quando appunto menzionate il termine Allah in riferimento alla religione dell'Islam, perché questo è scritto nel Corano. Quindi dovete sempre considerare che sia ebrei che musulmani, i predicatori dell'Evangelo li odiano e li perseguitano perché li vedono come appunto dei nemici acerrimi della loro religione, in quanto vogliono farli apostatare. Capite? Ecco perché poi sia quando un ebreo crede nell'Evangelo, sia quando un musulmano crede nell'Evangelo, ricevono delle opposizioni durissime, il primo dagli ebrei e il secondo dai musulmani, ma proprio veramente durissime. Ci sono paesi musulmani dove coloro che credono nell'Evangelo, appunto, rischiano la vita, e ci sono di quelli che vengono uccisi a motivo dell'Evangelo. Mi ricordo quando nel 1900, quando mi sono convertito, incontrai un fratello in Inghilterra che mi disse: fratello, vieni a predicare da noi. Mi pare che fosse del Pakistan o comunque di un paese dove vigeva la religione dell'Islam, e mi disse: vieni da noi, predica l'Evangelo. Ma io ero appena convertito. Mi diceva: da noi quando uno crede nell'Evangelo viene ucciso anche dai suoi familiari. Naturalmente che potevo rispondere? Non so adesso esattamente cosa gli risposi, probabilmente gli risposi: se Dio vorrà, un giorno verrò a predicare l'Evangelo da voi. Però poi il Signore mi ha chiamato nel Lazio, perché anche qui c'è bisogno in Italia di predicare l'Evangelo. Anche qui in Italia, infatti, l'Evangelo è molto odiato, il messaggio dell'Evangelo, sì, proprio in questa nazione che si dice cristiana. Talvolta molti lo dimenticano, ma le cose stanno così. Ora, tra coloro che odiano, coloro che predicano, ci sono anche i massoni. I massoni, voi sapete, sono i membri di una società segreta che si chiama massoneria, molto frastagliata, molto divisa, comunque sia. La massoneria è un'istituzione satanica che adora e serve il grande architetto dell'universo, no? Il Gadu, che è Satana, dietro questo nome Gadu si nasconde Satana. Ora, i massoni appartengono a diverse religioni, ci sono buddisti massoni, ci sono musulmani massoni, ebrei massoni, protestanti massoni, insomma c'è un po' di tutto nella massoneria. Allora, la massoneria, il midollo della massoneria è diciamo l'agnosi. L'agnosi, ossia la conoscenza, ma quale conoscenza? La conoscenza che si oppone a Dio. Allora, lo vedremo meglio quando vi parlerò degli gnostici. Allora, i massoni che cosa praticamente insegna? Che cosa insegna la massoneria? Che l'uomo viene salvato per le proprie opere buone, a prescindere da ciò in cui crede. Ecco perché per la massoneria, diciamo, non è assolutamente indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati e giustificati, no, perché sia la salvezza che la giustificazione si possono tranquillamente conseguire mediante delle opere di carità, delle opere filantropiche. Ora, questa naturalmente, infatti, per entrare nella massoneria, che cos'è che deve credere uno? Deve credere che esiste un essere supremo e poi nell'immortalità dell'anima, questo per la massoneria regolare. Quindi voi capite che nella massoneria possono entrare, diciamo, persone appartenenti a tante religioni, e di fatto è così, però l'insegnamento della massoneria, appunto, si oppone nettamente a quello della Sacra Scrittura. Perché la Sacra Scrittura dice che il giusto vivrà per la sua fede, invece i massoni sostanzialmente insegnano quello che insegnano gli ebrei: l'uomo che farà queste cose vivrà per via di esse, no? Lo riassumo perché, diciamo, effettivamente la massoneria ha molte cose in comune, come voi sapete, con l'ebraismo, e una di queste è appunto la salvezza per opere, la giustificazione per opere. E infatti loro sostanzialmente insegnano questo, la massoneria insegna questo: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ecco perché la massoneria mette molta enfasi sulle opere filantropiche e così via, perché loro ritengono che un massone che fa fa delle opere buone, poi sarà salvato nella Gran Loggia Celeste, no? O nell'Oriente Eterno, come lo chiamano loro. Allora, i massoni quindi si oppongono strenuamente a coloro che annunziano l'Evangelo. Perché? Perché coloro che annunziano l'Evangelo non ammettono una salvezza e una giustificazione all'infuori della fede nel Signore Gesù Cristo. Perché non ammettono un altro Salvatore all'infuori di Gesù. Quindi, siccome che i massoni sono per l'unità delle religioni, che vogliono mettere assieme un po' persone di tutte le religioni, non possono vedere, diciamo, di buon occhio coloro che annunziano l'Evangelo. Perché coloro che annunziano l'Evangelo, oltre a proclamare la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, cosa che i massoni odiano, praticamente dividono le persone. Perché con la predicazione dell'Evangelo sorgono i credenti e poi rimangono gli increduli. E quindi sorge praticamente una divisione che loro non possono, dicono appunto, non possono tollerare. In altre parole, coloro che predicano l'Evangelo sono visti come delle persone, oltre che esclusiviste, anche delle persone che provocano divisioni e quindi che non promuovono il bene della società. Praticamente loro accusano chi predica l'Evangelo di dividere gli uomini, non di unirli. Capite? E quindi questo odio verso l'Evangelo porta i massoni a odiare e disprezzare anche coloro che predicano l'Evangelo. Anche questa è una cosa molto importante da tenere a mente, perché molti ancora non hanno capito la ragione di fondo per cui la massoneria odia l'Evangelo e chi predica l'Evangelo. Oltre ai massoni ci sono gli gnostici, anche se i massoni comunque sia sono essenzialmente degli gnostici, però voglio trattare gli gnostici, diciamo separatamente, perché comunque sia ci sono chiese gnostiche, associazioni gnostiche e così via, e tutti costoro odiano l'Evangelo. Ma perché? Perché gli gnostici sono appunto una setta. Sono, diciamo, degli eretici, le cui origini risalgono al primo secolo dopo Cristo. Gli gnostici negano che Gesù è il Cristo, perché loro ritengono che Gesù non è il Cristo, ma ha ricevuto su di sé un eone di nome Cristo, che è sceso di lui. Loro ritengono che questo sia avvenuto al battesimo, quando Giovanni il Battista lo battezzò nel fiume Giordano. Quindi sostanzialmente loro dicono che c'è una differenza tra Gesù e il Cristo. Ecco perché negano che Gesù è il Cristo. E loro ritengono che Gesù non è il Cristo, ma un maestro di gnosi, un maestro di conoscenza. Cosa significa questo? Perché gnosi viene da una parola greca che significa conoscenza. Cosa significa questo? I gnostici insegnano che l'uomo contiene una scintilla di Dio, una scintilla divina. Questa scintilla divina procede da Dio, è una parte di Dio che ha lasciato il cielo e si è andata a incarnare nel corpo dell'uomo. Quindi l'uomo è parte di Dio o Dio, ma l'uomo non lo sa. L'uomo non lo sa perché è nelle tenebre, nell'ignoranza, diciamo così. Allora ha bisogno di un'illuminazione, tramite la quale arrivare a, alla conoscenza di essere Dio. Ora, ci sono varie scuole gnostiche, ognuno, prevede un percorso per portare l'uomo, che viene iniziato naturalmente, perché lì c'è un'iniziazione nelle chiese gnostiche, tramite l'iniziazione, appunto, ogni scuola gnostica si studia di portare l'iniziato a conoscere di essere lui stesso Dio. Infatti il motto degli gnostici, che poi è anche il motto dei massoni, è conosci te stesso. Perché? Perché è conoscendo se stessi che si conosce Dio. Eh sì, è proprio così. È una dottrina satanica che comunque è molto diffusa oggi nel mondo, sappiatelo questo, Nella cultura, quindi tra i filosofi, e nella musica, e nel cinema. Guardate che il concetto della gnosi, guardate che è molto diffuso, molto più di quello che possa sembrare. Quindi bisogna stare molto, molto, molto attenti, anche perché certi principi gnostici sono penetrati anche nelle chiese per mano dei massoni, che sono, essenzialmente degli gnostici. Allora, la salvezza di cui parlano gli gnostici, praticamente, in che cosa consiste quindi? Nell'apprendere di essere Dio, e quindi nell'uscire dall'ignoranza e pervenire alla conoscenza della propria natura divina o della propria identità divina. Allora, stando così le cose, ecco, per loro Gesù è venuto a insegnare la gnosi, ossia è venuto a insegnare a una cerchia ristretta di suoi discepoli che l'uomo è Dio e deve praticamente pervenire a questa conoscenza della propria divinità conoscendo se stesso. In sostanza, per loro Gesù avrebbe detto ad alcuni suoi ristretti discepoli: conoscete voi stessi e conoscerete Dio, ossia di essere Dio. Allora, dato che questa è la salvezza, in questo consiste la salvezza degli gnostici, è evidente che gli gnostici non possono che odiare l'Evangelo. Non possono che odiare l'Evangelo e perseguitare coloro che annunziano l'Evangelo. Guardate bene che quello che credono gli gnostici lo credono anche tanti massoni, tantissimi massoni, vorrei dire. Naturalmente riescono sempre i massoni un po' a ingannare le persone, perché quando per esempio si parla del segreto della massoneria, sapete, conoscete la battuta: il segreto dei massoni, il segreto della massoneria è che non c'è alcun segreto. No, non è così. Il segreto della massoneria praticamente è la gnosi, è praticamente la conoscenza del proprio sé, che equivale alla conoscenza della propria identità divina. Ricordatevelo sempre questo, perché questa è la ragione per cui i massoni e gnostici sono degli alleati. Infatti molte chiese gnostiche sono state fondate da massoni, sono piene di massoni. E per esempio tra i Rosa Croce ci sono molti massoni. I Rosa Croce, per esempio, sono un'associazione gnostica, essenzialmente gnostica. Anche la cosiddetta Teosofia è un'associazione gnostica. E sono tutte queste associazioni pregne di massoni. Insomma, i massoni vanno d'accordissimo con gli gnostici. E vi ripeto, ci sono chiese gnostiche che sono state fondate da massoni, ma perché hanno in comune appunto la gnosi, che praticamente poi fa parte di quel movimento eretico che fu lo gnosticismo. Ricordatevelo sempre questo, e che naturalmente a cui gli apostoli si opposero, e poi anche tanti altri poi nel corso dei secoli si sono opposti, a cui bisogna opporsi ancora oggi, perché lo gnosticismo è molto più diffuso di quello che uno possa pensare, e le chiese dovrebbero mettere in guardia, ossia i conduttori delle chiese dovrebbero mettere in guardia dalla cosiddetta gnosi. Perché la gnosi è, diciamo, predicata, insegnata dai massoni. Quindi, allora, stando così le cose, vi dicevo, cioè, consistendo in questa la salvezza che predicano, tra virgolette, che predicano gli gnostici, è evidente che per loro l'Evangelo è una chiacchiera, per loro l'Evangelo è una favola, per loro l'Evangelo non ha alcun senso, per loro l'Evangelo è pazzia. Infatti, sia per i massoni che per gli gnostici, l'Evangelo è pazzia, e coloro che lo annunziano che cosa saranno quindi? Dei pazzi. Dei pazzi. Infatti, cercano di fare passare coloro che predicano l'Evangelo per dei pazzi. Ma quello è un pazzo. Ma cosa predica? Capite? Anche perché per loro sentir dire Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, cioè è un'affermazione folle. Poi per loro sentir dire chi non avrà creduto sarà condannato, ma è un'affermazione folle, eppure sono parole di Gesù, chi non avrà creduto sarà condannato. Ma perché per loro non esiste una condanna causata dal non credere nell'Evangelo, ma nella maniera più assoluta. Allora capite perché poi chiaramente massoni e gnostici, diciamo, sono alleati contro l'Evangelo e contro chi predica l'Evangelo? Meditate, riflettete e capirete. Il Signore vi darà ad intendere tante cose. Inoltre abbiamo pure i mariani, cattolici romani. Mariani perché sono, diciamo, devoti adoratori della Dea Maria, ossia della madre di Gesù, che loro hanno trasformato in una divinità e le rendono il culto. L'adorano, la pregano, la invocano, gli rivolgono dei cantici, delle richieste, la considerano l'avvocata, la ritengono corredentrice, la ritengono, diciamo, una potente mediatrice in cielo. Le preghiere di Maria sono considerate veramente le più potenti che esistano, di quelle che loro pensano Maria rivolge a Gesù, e che appunto loro dicono che Gesù non rifiuta le preghiere di Maria, che Maria appunto gli fa in cielo. Ecco perché, diciamo, i mariani si rivolgono a Maria e le chiedono di pregare per loro. Allora, i mariani, anche loro odiano l'Evangelo, perché loro hanno Maria che li salva. È Maria la porta del cielo, è Maria, diciamo, la dispensatrice di tutte le benedizioni. Capite? Quindi loro si rivolgono a Maria. Per loro Gesù è come se non fosse morto. È come se fosse morto inutilmente, perché loro hanno Maria. Capite? La loro salvezza praticamente dipende da Maria. E allora, stando così le cose, è evidente che non sentono in una maniera più assoluta la necessità di ravvedersi e di credere nell'Evangelo per essere salvati, perché c'è Maria, capite? Ma oltretutto ricordatevi sempre questo, che il culto idolatrico a Maria è legato anche, diciamo, ad altre, diciamo, eresie della chiesa papista, in particolare l'eresia sulla giustificazione. Perché nella chiesa cattolica romana la giustificazione è per fede e per opere, ossia, per loro è come se ci fosse scritto nella Bibbia: il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. In sostanza, loro hanno creato un sistema teologico che fa dipendere la giustificazione dalle opere, dalla propria giustizia. Capite? Ecco perché i mariani odiano l'Evangelo e coloro che predicano l'Evangelo. Perché? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. La giustizia di Dio. Da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ora, quindi, chi crede nell'Evangelo viene, secondo quello che dice la Sacra Scrittura, viene giustificato. Giustificato. Viene costituito giusto. Ma non così per i mariani. Perché per i mariani, oltre a credere in Gesù, bisogna fare le opere buone. Perché la propria giustizia si va a integrare con la giustizia di Dio. Ossia, la giustizia di Dio non può vivificare l'uomo che crede se l'uomo non aggiunge le opere buone. Ma questa è una eresia, perché noi siamo giustificati soltanto per la fede nel Signore Gesù Cristo, senza le opere della legge. Senza le opere della legge. Non è che noi, dopo che abbiamo creduto, abbiamo bisogno di fare opere buone per essere giustificati. No, fratelli nel Signore. Noi siamo giustificati per fede, in quanto abbiamo ricevuto la giustizia di Dio che viene dalla fede. Quindi, la nostra giustizia, che è composta da preghiere, da digiuni, da elemosine, non può aggiungere alcunché alla giustizia di Dio, perché essa è perfetta. Ma allora perché sono necessarie le opere buone? Il Signore le ha comandate. Quindi il fatto che noi pratichiamo la nostra giustizia è dovuto al fatto che il Signore ci ha comandato di praticarla, ma non per essere giustificati. Perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto. Allora, le opere buone che noi compiamo servono praticamente al premio, ad ottenere una ricompensa da parte del Signore. Perché ciascuno di noi riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Cioè, sostanzialmente, il Signore ci darà, ciascuno di noi, una ricompensa in base alle opere buone che noi abbiamo compiuto. Quindi, noi saremo salvati dal Signore nel suo regno celeste per la sua grazia. Perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Mentre per le opere buone che noi abbiamo compiuto, sulla terra, noi otterremo un premio che naturalmente varierà a secondo, diciamo, della quantità di opere buone che ciascuno di noi ha compiuto. Quindi state molto attenti. Perché? Perché i mariani associano praticamente, il loro culto a Maria, anche diciamo questa eresia distruttiva, che praticamente alla fine fa risultare la morte di Cristo una morte inutile. Non solo, anche l'Evangelo lo fa risultare un messaggio inutile. Allora, coloro che predicano l'Evangelo coloro che predicano l'Evangelo, come vengono visti quindi dai mariani? Come coloro che cercano di farli apostatare. Apostatare? E certo, perché per i mariani abbandonare il culto a Maria significa apostatare. Coloro che infatti si convertono dagli idoli muti della Chiesa papista a Cristo vengono considerati sostanzialmente degli apostati o degli eretici a seconda. Comunque sì, degli apostati, perché poi naturalmente abbandonando il culto a Maria abbandonano anche la Chiesa papista e per loro questa è apostasia. Quindi guai ai protestanti, guai agli evangelici, naturalmente a quelli che sono nati da Dio e che credono nell'Evangelo, perché tanti protestanti e tanti evangelici assolutamente non ci credono nell'Evangelo. Quindi capite che l'odio dei mariani verso l'Evangelo li porta naturalmente a odiare e perseguitare coloro che predicano l'Evangelo. Infatti noi siamo odiati, siamo perseguitati dai mariani. La verità è questa, non è che la possiamo nascondere, è sotto gli occhi di tutti. Ci prendono appunto per coloro che vogliono fargli abbandonare la verità. Pensate un po' voi questi quanto sono ciechi, ottenebrati proprio. Invece noi, il nostro desiderio è che essi siano salvati perché sono schiavi del peccato e sono sulla via della perdizione in quanto sono idolatri. Quindi vi ho spiegato, diciamo, per sommi capi, perché i mariani odiano e perseguitano chi predica l'Evangelo. Poi ci sono gli evangelici. Sì, gli evangelici tra quelli che odiano e perseguitano chi predica l'Evangelo. Ma quali evangelici? Mica tutti, noi siamo evangelici. Gli evangelici che non sono nati da Dio, quindi gli evangelici che non credono che Gesù è il Cristo, ossia gli evangelici che non credono nell'Evangelo. Alcuni sembrerà molto strano questo, ma molti, molti, molti evangelici non credono nell'Evangelo, credono in un altro Evangelo. E credendo in un altro Evangelo non sono salvati, non sono giustificati. Allora, che cosa succede? Succede che, avendo accettato un altro Vangelo, naturalmente odiano e perseguitano noi che predichiamo l'Evangelo. Capite? E anche questi fanno lo stesso ragionamento. Ci accusano di volerli fare apostatare, ci accusano di cercare di volergli far abbandonare la fede, ma quale fede? La fede finta. Vogliamo farvi abbandonare la fede finta, sì, perché avete riposto la vostra fiducia in un altro Evangelo e non lo sapete, siete nell'ignoranza. E allora noi, con l'aiuto di Dio, vi annunziamo l'Evangelo affinché voi, credendo nell'Evangelo, siate salvati e giustificati. Quindi mi sono rivolto appunto a coloro che appunto ci perseguitano e ci odiano a motivo dell'Evangelo. Quindi vedete, fratelli nel Signore, anche questo bisogna dire, cioè che ci sono tanti evangelici che odiano e perseguitano chi predica l'Evangelo, perché loro hanno accettato un altro Vangelo, un Vangelo diverso. Ecco perché quando ci sentono parlare sentono una lingua incomprensibile e dicono: ma questi qua cosa stanno dicendo? Capite? Perché costoro non sono nati da Dio. Avendo accettato un altro Vangelo, come possono essere nati da Dio? Sì, vanno al culto, pregano, cantano, ma non sono nati da Dio, non avendo creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo. Perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E quindi chi non ci crede, non è nato da Dio. E molti evangelici sono sotto il peccato, schiavi del peccato, sono morti nei loro falli, nei loro peccati, perché appunto non credono nell'Evangelo. E a noi ci vedono veramente come fumo negli occhi, ci detestano, anche perché, tenete presente questo. Allora, molti che si definiscono evangelici, sostanzialmente, annullano la grazia di Dio. Perché predicano esattamente quello che predicano i cattolici romani, ossia i mariani, cioè che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. Sì, proprio così. Infatti loro ritengono di essere giustificati per le loro opere, non per la grazia di Dio, ma per le loro opere. Quindi costoro annullano la grazia di Dio e naturalmente presentano sostanzialmente la morte di Gesù come una morte inutile, perché per loro l'uomo viene giustificato per via delle opere. Loro sostanzialmente insegnano l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ma ce ne sono molti, sapete? E questo spiega l'odio da parte di costoro nei nostri confronti. È molto semplice il concetto, è molto semplice. Molti evangelici pensano di guadagnarsi la vita eterna con le loro opere. Voi direte, com'è possibile? Ma certo, hanno la stessa eresia sostanzialmente dei mariani. Che pensano appunto di guadagnarsi la vita eterna con le proprie opere buone. Quando voi parlate con i mariani, vi accorgerete che loro non hanno la certezza di avere la vita eterna. Vi rispondono sempre: ma io non sono presuntuoso, non sono così presuntuoso, non ho la vita eterna. Quindi noi saremmo presuntuosi. Quando è scritto chi crede a vita eterna. Allora, perché loro non hanno la vita eterna? Perché non credono, perché chi crede a vita eterna? Allora, che cosa vi dicono? Io me la sto cercando di guadagnare. Spero che un giorno il buon Dio, loro dicono così, nella sua misericordia mi dia la vita eterna per le opere buone che io ho compiuto. Ma questo significa annullare la grazia di Dio. E così ci sono evangelici che ragionano nella stessa maniera. Per loro la vita eterna non è il dono di Dio, ma è la paga della loro condotta che Dio gli darà a suo tempo. Addirittura ci sono degli scellerati che peraltro sono usciti dal nostro mezzo, lo voglio sempre ricordare questo, perché io lo ignoravo questo, naturalmente per anni l'ho ignorato perché non lo sapevo. Se l'avessi scoperto prima, li avrei cacciati prima, però... alla fine li ho scoperti poi quando Dio ha voluto, comunque. Praticamente questi insegnano che ogni volta che si inginocchiano in preghiera si appropriano di un pezzo di vita eterna. Questi chiaramente non sanno cosa sia la vita eterna, non sanno cosa significa la grazia di Dio, cioè non sanno. E quindi naturalmente non hanno la vita eterna, perché chiaramente chi pensa di potersi appropriare di un pezzo di vita eterna ogni volta che prega in ginocchio è evidente che non ha la vita eterna, che ne dica. Allora, che cosa significa questo? Che costoro non sono da Dio perché non hanno la vita eterna, non hanno il figliolo. Allora è evidente che loro, avendo questa eresia, ci odiano, ci perseguitano. Perché? Perché noi crediamo che quello che credeva l'Apostolo Paolo, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Chi crede, come ha detto Gesù, ha vita eterna, ce l'ha. Dal momento che crede, ce l'ha. D'altronde è scritto: tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Se credono coloro che sono ordinati a vita eterna, è evidente che coloro che credono poi hanno la vita eterna. Non è che se la devono guadagnare pregando, digiunando, facendo elemosine. Hanno la vita eterna. Infatti, diceva l'Apostolo Giovanni, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che cosa. Guardate che cosa dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Dice: io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Avete la vita eterna. Noi abbiamo la vita eterna. Noi non ci appropriamo di alcun pezzo di vita eterna quando preghiamo, quando in ginocchio, quando facciamo delle elemosine, quando digiuniamo, nella maniera più assoluta. Noi abbiamo già la vita eterna. Per le opere buone otterremo una ricompensa da parte di Dio. Allora, chiaramente tutti costoro ci odiano, ci perseguitano perché predichiamo l'Evangelo, fratelli nel Signore. Questa è la ragione dell'odio, della persecuzione da parte di costoro. Non vi fate ingannare, diciamo, da vani ragionamenti. Le ragioni del loro odio, le ragioni della loro persecuzione nei nostri confronti sono queste. Allora noi che faremo? Disse Paolo a Timoteo queste parole, no? Per dirvi che cosa deve fare appunto chi predica l'Evangelo. Allora gli ha detto così Paolo a Timoteo, dice così: soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Ecco quello che noi facciamo, soffriamo per l'Evangelo, a motivo dell'Evangelo, sorretti, quindi assistiti, sostenuti dalla potenza di Dio. Sì, perché la potenza di Dio è con noi e ci sostiene a noi che annunziamo l'Evangelo. Quindi noi non abbiamo paura dei nostri avversari, sono gli avversari che hanno paura di noi, siamo un incubo per loro, ci vedono da tutte le parti. Pensate un po' voi, gente veramente che c'ha gli incubi. Che vita che fanno i nostri avversari, Noi siamo tranquilli, siamo fiduciosi nel Signore, siamo felici, Ci rallegriamo nel Signore, veramente, sia quando siamo da soli, sia quando siamo con i santi, ma questi veramente c'hanno gli incubi. E allora, fratelli del Signore, quello che facciamo noi è questo: soffriamo, sorretti dalla potenza di Dio. Sopportiamo le sofferenze come dei buoni soldati di Cristo Gesù. D'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi noi non ci meravigliamo della persecuzione che ci viene rivolta. L'Apostolo Paolo e i suoi compagni d'opera furono perseguitati, odiati prima di noi a motivo dell'Evangelo. Quindi noi non ci meravigliamo né dell'odio né della persecuzione che da tutti costoro, appunto, diciamo, che tutti costoro ci rivolgono a noi. Però, appunto, vogliamo ribadire questo concetto. Con l'aiuto che viene da Dio, continueremo ad annunziare agli uomini che si ravvegano dinanzi a Dio e credano nell'Evangelo della grazia, per essere salvati, giustificati, perdonati, rigenerati, riconciliati con Dio e per avere la vita eterna. Non importa quanto odio manifesteranno contro di noi i nostri avversari, non importa quante persecuzioni scateneranno contro di noi i nostri avversari, noi con l'aiuto che viene da Dio continueremo a predicare questo. E quindi, diciamo, lo faremo con gioia, sapendo appunto che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Noi crediamo nella potenza di Dio. Noi la nostra fiducia non la riponiamo in noi stessi, non la riponiamo in discorsi persuasivi di sapienza umana, non la riponiamo la nostra fiducia nella sapienza umana o nella filosofia. La nostra fiducia è nella potenza di Dio e noi crediamo che l'Evangelo è potenza di Dio. Per quello lo predico, per quello lo difendo, perché l'Evangelo è sotto attacco. Quindi, fratelli nel Signore, state saldi nella fede del Vangelo. Difendete la fede del Vangelo. Non vi lasciate impaurire da niente e da nessuno. Il Dio è con voi. La grazia di Dio è con voi. La sua benignità è sopra di voi. Temete il Signore e il Signore vi confermerà nella fede fino alla fine. E non solo vi confermerà nella fede, ma vi confermerà anche in ogni opera buona e in ogni buona parola. Sopportate le sofferenze che avrete da patire a cagione dell'Evangelo, sapendo che prima di voi le hanno patite tanti altri nostri fratelli. Ma non abbiate paura dei nemici della croce di Cristo. Perseverate nella fede e quindi nella grazia di Dio, fino alla fine. Serbate la fede in questo messaggio, che è l'Evangelo della gloria del Beato Dio. E quando arriverà il vostro momento, stabilito da Dio, il Signore, nella sua grande misericordia, vi salverà nel suo regno celeste. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.